Giornale radio del Friuli Venezia Giulia. Escludere a vita questi razzisti dallo stadio, così il direttore generale dell'Udinese Franco Collavino sul caso degli insulti a Maignan. Dalla politica la richiesta di misure più stringenti per cori razzisti. Per Bruno Pizzul questo non è un tifo friulano. Cresce l'occupazione in regione, ma diminuiscono le assunzioni a tempo indeterminato e le stabilizzazioni. Un problema soprattutto per i giovani e per le donne sotto i 35 anni. Più fondi dall'Europa per la formazione dei detenuti. Positivo il bilancio di un anno del nuovo percorso avviato dalle 5 carceri della regione. Edilizia e ristorazione i settori più gettonati. 600.000 euro per progetti di welfare di comunità e a sostegno della cura di minori, anziani e disabili. Soldi messi a disposizione dalla Fondazione Friuli grazie ad un nuovo bando welfare. A Pordenone è inaugurato il nuovo centro di accoglienza per migranti, 75 i posti nello stabile della comunità di Villa Regia, la struttura che apparteneva ai missionari comboniani. Solo la società civile può fare qualcosa per salvare il pianeta, lo dice il professor Filippo Giorgi, climatologo dell'ICPT di Trieste, che oggi terrà un incontro a Miramare. La COP28 di Dubai, ha aggiunto, è stata inutile. Ancora, parliamo ancora del caso degli insulti razzisti al portiere del Milan Maignan, ma in attesa di essere nel portiere del Milan Maignan avvenuti nella partita di sabato scorso contro l'Udinese. La polizia sta visionando i filmati, ascoltando gli steward. Anche Bruno Pizzul, storico telecronista Rai, condanna il gesto, ma ricorda: non tutto il tifo friulano è così. Sentiamo. Lavoreremo per escludere a vita questi razzisti dallo stadio, è quanto dichiara il direttore generale dell'Udinese Franco Collavino in merito ai responsabili degli insulti a Maignan di sabato scorso. Siamo convinti che si tratta di non più di due o tre persone, ha precisato. Non ci sono stati cori, ce lo hanno confermato sia l'arbitro sia la procura federale. In ogni caso non importa il numero, fosse anche uno soltanto, resta una cosa gravissima. Non accennano a spegnersi i riflettori sul caso Maignan e sul clamore che questo ha suscitato sui media nazionali e internazionali. Abbiamo chiesto un'analisi sull'accaduto al decano dei cronisti sportivi, Bruno Pizzul. Da qui a quella che è stata la reazione mediatica clamorosa, tutta Italia ce ne corre, perché in effetti poi è stato interpretato a danno dell'intera tifoseria friulana quello che invece era di responsabilità di alcune persone, non se ne sa quante, ma sicuramente non parecchie, tant'è che nessuno si era accorto di quello che era successo se non il portiere del Milan, che ha fatto le sue rimostranze e ha in pratica suscitato questa reazione clamorosa a livello mediatico, a sottolineare un fatto che purtroppo avviene frequentemente in tutti gli stadi italiani. Continuano le indagini della Digos per capire quanto accaduto e individuare gli eventuali responsabili. Al momento, come ci conferma il procuratore Massimo Lia, nessun fascicolo aperto in procura, in attesa della relazione da parte della polizia e in base a quella vedere gli eventuali capi di imputazione. Anche il prefetto di Udine segue con attenzione le indagini, valutando eventuali provvedimenti. Udine, Giovanni Tormina, TGR Friuli Venezia Giulia. E la polizia sta continuando a visionare le telecamere di videosorveglianza dello stadio, ad ascoltare gli steward che erano in servizio nella zona di campo alle spalle del portiere Maignan. Da quando apprende l'ANSA, il fatto che gli insulti razziali fossero circoscritti a pochissimi spettatori rende l'indagine più complessa, a meno che non ci sia qualche testimone che possa indicare chiaramente le persone che hanno urlato le frasi razziste. Oltre alle immagini, esistono comunque anche alcuni audio che gli investigatori intenderebbero ascoltare, che saranno dunque chiesti alla produzione televisiva. Alcune postazioni si trovano alle spalle della porta, anche se sono rivolte verso il campo, potrebbero rivelarsi comunque utili per individuare almeno la specifica zona del campo da dove provenivano gli insulti. Il numero di lavoratori più alto dal 2007 in regione, uno dei tassi di occupazione migliori in Italia. Eppure giovani e donne rimangono poco occupati e ancora peggio sottooccupati. Due grossi problemi di cui si è occupata la nostra rubrica del mattino. Buongiorno Regione, sentiamo. Nel 2022 il numero di occupati in Friuli Venezia Giulia ha superato quello del 2007, prima della recessione. Nel 2023 i numeri sono un po' scesi, ma l'occupazione comunque va bene. Il tasso di occupazione generale è al 70%, quello dei giovani fino ai 34 anni è però al 51%, più basso ancora quello delle donne under 35, arriva a malapena al 45%. Carlos Corvino, responsabile dell'Osservatorio regionale sul lavoro. Ci sono due motivi diversi. Per ciò che riguarda i giovani, hanno una percentuale di precarietà molto elevata, intorno al 45%. E per ciò che riguarda le donne, quella fascia di età è una fascia problematica, perché le donne fanno più fatica a entrare nel mondo del lavoro e una volta trovato il lavoro c'è il problema della maternità, per cui un problema di tenerlo e poi di ritorno eventualmente dalla maternità. Proprio perché la quota di precari è alta, esiste un problema di redditi. Il reddito annuo medio lordo in regione è di 23.000 euro, quello dei precari è di 11.000. È un problema di indipendenza economica dei giovani. In Italia si esce di casa in media a 30 anni, più tardi della media europea. La mancanza di un progetto di vita ritarda anche il pensare ad avere figli. La nostra regione, ma diciamo anche per l'Italia in generale, occorrerebbe cercare di raggiungere il modello nordico, che incentiva le persone giovani a uscire di casa con gli affitti calmierati e con la possibilità di accendere un mutuo anche se il lavoro è ancora a termine in quel momento lì. Dall'altra parte incentivare le assunzioni, come sta facendo la regione in questo momento, incentivare le assunzioni almeno di 12 mesi affinché l'esperienza di lavoro sia significativa. Trieste, Livia Liberatore, TGR Friuli Venezia Giulia. È in corso da stamattina a Monfalcone lo sciopero nei cantieri di Fincantieri organizzato dai sindacati di base, USB e dal COBAS per chiedere più sicurezza dopo l'incidente avvenuto nei giorni scorsi in cui era rimasto ferito un operaio. Nella mattinata il banchetto all'ingresso con la distribuzione di oltre 4.000 volantini. Tra le adesioni, comunicano i rappresentanti dell'USB, la maggioranza è composta da persone di origine straniera. All'alba a Pasiano alcuni ignoti hanno fatto saltare il bancomat delle Poste in via Roma. L'operazione, che ha svegliato i vicini a causa dell'esplosione, è avvenuta intorno alle 5:30 del mattino. Non si conosce ancora l'importo del denaro rubato dallo sportello automatico. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e i vigili del fuoco, che hanno transennato l'area per gli accertamenti. Ritrovata dalla polizia una signora ultraottantenne di Gorizia che si era allontanata da una struttura di accoglienza per persone anziane nel capoluogo isontino. La donna, dopo essere uscita autonomamente a piedi dalla struttura, è stata notata nel quartiere di Sant'Anna da una cittadina che ha contattato il numero unico di emergenza, segnalando appunto una persona anziana disorientata che sembrava avesse smarrito la via di casa. Il personale della squadra volante è riuscito a individuare la signora, a metterla in salvo. L'anziana, nonostante le rigide temperature di questi giorni, all'arrivo della polizia si presentava cosciente e in salute ed è stata quindi affidata alle cure del personale della casa di riposo. E siamo al tempo, cielo sereno su pianura e costa, coperto sui monti. Queste le temperature registrate alle 11, a Trieste 8 gradi, a Udine 4 gradi e mezzo, a Gorizia 4, a Pordenone 3 gradi, a Forni di Sopra 4 gradi, sul Biancavallo 3, a Tolmezzo 2 gradi e 5 decimi, a Sappada meno mezzo grado, a Tarvisio meno 3 gradi, sullo Zoncolan e sul Lussari 1 grado e 5 decimi, sulla costa a grado 4 gradi, a Legnano 3 gradi e mezzo. Le previsioni dell'ARPA regionale: nel pomeriggio avremo nuvolosità in aumento ovunque per nubi medio-alte, fino ad avere cielo nuvoloso coperto in serata, ma senza altri fenomeni significativi. Domani cielo sereno di primo mattino, in seguito cielo poco nuvoloso per velature o nubi medio-alte. Zero termico medio attorno ai 1500 metri circa. Parliamo di carcere e dell'impiego del Fondo Sociale Europeo per creare opportunità di lavoro per chi ha avuto a che fare con la legge e ha espiato una pena in cella. Un percorso di rieducazione e di reinserimento che passa dunque attraverso il lavoro. Guardare al futuro e non al passato, ricostruire una vita proprio come indica la Costituzione all'articolo 27, le pene devono tendere alla rieducazione del condannato. È il principio guida che ha portato la formazione al lavoro in carcere, fornendo prospettive concrete di reintroduzione nella società. Le risorse del Fondo Sociale Europeo sono veicolate dalla Regione e proprio in questi giorni compie un anno il nuovo percorso specifico avviato nelle case circondariali di Trieste, Tolmezzo, Udine, Gorizia e Pordenone. Rispetto al ciclo precedente pluriennale che dal 2015 al 2020 ha visto stanziati 4 milioni di euro, in un solo anno, dal gennaio 2023 al gennaio 2024, le risorse messe a disposizione sono già oltre la metà, 2 milioni e 200 mila euro, e i progetti proposti dalle case circondariali e dagli enti di formazione accreditati sono in continuo progresso. Anna Maria Bosco, della Direzione Regionale Lavoro. Al momento abbiamo finanziato 72 progetti di formazione per le persone in esecuzione penale, abbiamo 315 detenuti in formazione, abbiamo dei settori più gettonati che sono l'edilizia e la ristorazione. Settori che cercano persone da impiegare, il futuro insomma passa per il lavoro, ma non solo, oltre a quelli per imparare un mestiere, ai detenuti vengono proposti anche corsi finalizzati al miglioramento delle relazioni sociali. Daranno la possibilità, una volta finita la pena, alla persona che è stata in formazione di ambire non solo quindi ad un inserimento di tipo lavorativo, ma anche ad una buona reintegrazione ed inclusione sociale. Dei 315 detenuti coinvolti, 16 sono donne e le richieste di partecipazione non mancano. Altri corsi potranno essere attivati fino al 30 giugno e poi si apriranno nuovi programmi con nuovi finanziamenti. Andrea Covre, TGR Friuli Venezia Giulia. Adesso andiamo a Pordenone, dove è operativa l'ex casa dei missionari comboniani, che da poco ospita una parte dei migranti che erano stati provvisoriamente accolti nell'hangar della Comina. È stato inaugurato poco fa in via San Daniele 10 a Pordenone, nuovo centro di accoglienza per persone migranti a 50 posti, più uno spazio dedicato all'emergenza freddo, altri 25 posti per una capienza massima di 75 persone. Avrà una gestione separata, il CAS gestito dalla cooperativa Nuovi Vicini, l'emergenza freddo, dalla Croce Rossa Comitato di Pordenone con la locale Caritas, la proprietà dello stabile della comunità missionaria di Villa Regia. Sono stati eseguiti degli interventi di adeguamento strutturale per rendere possibile lo spostamento delle persone migranti che prima erano accolte all'hangar in Comina. Per il prefetto di Pordenone, Natalino Domenico Manno, il risultato di una strategia condivisa grazie alla collaborazione delle realtà del territorio. Presente all'inaugurazione anche il ministro per i rapporti con il Parlamento, il pordenonese Luca Ciriani. Gli interventi di adeguamento sono stati resi possibili grazie anche a un contributo straordinario del Ministero dell'Interno di 100.000 euro. Il vescovo di Pordenone, Giuseppe Pellegrini, presente all'inaugurazione, ha sottolineato come i migranti siano necessari per il nostro sistema economico e sociale. Il sindaco Alessandro Ciliano ha sottolineato come l'hangar in Comina fosse una situazione temporanea e che Pordenone abbia il tasso di immigrati residenti più alto d'Italia. Pordenone, Natascia Gargano, TGR, Friuli Venezia Giulia. Aziende pubbliche e private hanno tempo entro la fine di febbraio per presentare progetti destinati alla cura di minori, anziani e disabili. Oggi a Udine la presentazione dei bandi welfare da parte della Fondazione Friuli. 600.000 euro per progetti di welfare di comunità e sostegno alla cura di minori, anziani e disabili. Soldi messi a disposizione da Fondazione Friuli tramite un nuovo bando welfare, il settimo. I progetti della durata massima di un anno potranno essere presentati da aziende pubbliche o private, comuni, enti no profit, nelle ex province di Udine e Pordenone entro il 29 febbraio. Saranno finanziati interventi della durata di 12 mesi a sostegno di domiciliarità, inclusione sociale e lavorativa di persone con disabilità o in condizioni di marginalità, e poi ancora sostegno alla genitorialità, servizi di prossimità per anziani e rivitalizzazione delle socialità di quartiere, prevenzione infine di comportamenti a rischio tra adolescenti. Il bando si avvale della collaborazione dell'amministrazione regionale del sostegno d'Intesa San Paolo. Negli ultimi 3 anni l'Istituto Jacques Maritain ha studiato l'impatto e i cambiamenti generati dal bando welfare. Il fattore moltiplicatore, ovvero il rapporto tra il valore complessivo del progetto e il contributo di partenza, è superiore a 4, ha affermato il presidente di Fondazione Friuli, Giuseppe Morandini. Si genera valore non solo dal punto di vista economico, ma anche valore sociale, a forte impatto per le nostre comunità. Dal 2020 al 2022 il numero di beneficiari, principalmente i familiari di persone in difficoltà, è passato da 110 a 230 per ogni progetto, ha spiegato il consulente scientifico Luca Bianchi. Anche la partecipazione di volontari è aumentata da 11 a 15 per ciascuna iniziativa. Il pubblico deve garantire saldamente la linea, il commento dell'assessore regionale alla salute Riccardo Riccardi, senza avere paura di costruire alleanze. Cooperazione e sussidiarietà, ha concluso, sono imprescindibili per le sfide poste dall'esplosione di malattie cronico-degenerative nel nostro tessuto sociale e l'assenza di una linea di separazione tra bisogni sociali e sanitari. Udine, Lillo Montalto Monella, TGR, Friuli Venezia Giulia. Sarà il professor Filippo Giorgi, climatologo e premio Nobel per la pace nel 2007 per l'IPCC, insieme ad Al Gore, a inaugurare la nuova stagione dei grandi incontri a Miramare con una conferenza alle 16. Lo scienziato è responsabile della sezione di fisica della Terra al Centro Internazionale di Fisica Teorica, che quest'anno compie 60 anni e che ha scelto questa occasione per iniziare i festeggiamenti. A Giorgi abbiamo chiesto come sta oggi il pianeta e cosa si può fare per proteggerlo. Sicuramente non bene, infatti ormai si parla di emergenze ambientali, non più di cambiamenti climatici. Che cosa si sta facendo? Purtroppo, secondo me, non abbastanza. Quest'ultima COP che c'è stata a Dubai, nella mia opinione, è stata praticamente inutile, se non addirittura dannosa, e diciamo le cose stanno procedendo molto, molto più lentamente di quello che si dovrebbe. Da chi deve partire l'iniziativa, secondo lei? Ma secondo me l'iniziativa non partirà a livello governativo da queste grandi riunioni e negoziazioni, perché io penso che ci siano troppi interessi di diverso tipo e quindi non si riuscirà mai a raggiungere un accordo vincolante. Quindi l'iniziativa principale deve venire dalla società civile, dai cittadini, dagli individui che devono un po' cambiare tutto il modo in cui ci si rapporta con il pianeta. Quindi dobbiamo cambiare un po' le regole della nostra società e fare finalmente questa transizione ecologica che sta andando ancora molto lentamente. Secondo lei questa sensibilità ecologica è diffusa in modo uniforme anche in paesi molto inquinanti come Cina, India o Stati Uniti? Sicuramente è più diffusa nei paesi che appunto chiamiamo industrializzati, quindi Europa, Stati Uniti, Australia e così via. I grandi inquinanti siamo ancora noi in un certo senso, però anche altri paesi lo stanno diventando. Infatti in questo momento il paese più inquinante dal punto di vista climatico e anche dal punto di vista dell'inquinamento è la Cina, per esempio. L'India sta crescendo, i paesi emergenti stanno crescendo in questo senso. Quindi bisogna fare sì che lo sviluppo di questi paesi avvenga in un ambito di economia verde. Tutte le discussioni che si fanno alle varie COP o in tutti questi tavoli di negoziazione più o meno partono su questo punto. I 60 anni dell'ICPT. L'ICPT nel corso degli anni è cambiato molto, si sta espandendo sempre di più, si sta lavorando sulle intelligenze artificiali, sulle energie rinnovabili e quindi diciamo l'istituto, da essere qualcosa prevalentemente di fisica teorica, sta tentando di affrontare tematiche molto più ampie. I rappresentanti delle comunità di Longarone, Erto e Casso e Vajont sono stati ricevuti da Papa Francesco a Roma in un'udienza speciale in ricordo delle 2000 vittime della tragedia del 1963. Si tratta di un'iniziativa promossa dalla diocesi di Belluno Feltre, una tragedia causata per aver anteposto la logica del guadagno alla cura dell'uomo e dell'ambiente in cui vive, ha detto Papa Francesco rivolgendosi ai membri dell'associazione Vajont. Il futuro è nella memoria. Se la vostra ondata di speranza è mossa dalla fraternità, quell'ondata che portò disperazione era provocata dall'avidità e l'avidità distrugge, ha aggiunto, mentre la fraternità costruisce. Papa Francesco ha sottolineato anche l'importanza del passaggio da un dolore incalcolabile e inenarrabile all'impegno per la rinascita, vissuto secondo l'indole della gente locale, senza molte parole ma con grande impegno e concretezza, rimboccandovi le maniche. Un inverno caratterizzato da temperature miti e il pressing di Confcommercio sono state alla base l'anno scorso della diminuzione del prezzo del pellet attorno al 30% dopo i forti rincari del periodo Covid che avevano di fatto triplicato il costo del sacco da 15 kg da 4 a 12 euro. Nel 2024 però torniamo a una stagione di aumenti causa rialzo dell'IVA dal 10 al 22%. Nonostante il governo, per non interferire con l'acquisto durante i mesi più freddi dell'anno, abbia deciso deciso di mantenere l'IVA agevolata al 10% per gennaio e febbraio, in prospettiva il quadro è non poco preoccupante, commenta Filippo Meroi, presidente del gruppo Tecno Edili di Confcommercio provinciale di Udine, perché andrà purtroppo inevitabilmente a impattare sul prezzo finale. La problematica è solo posticipata alla chiusura della stagione invernale e soprattutto la prossima estate, quando gli acquirenti faranno provviste con il prestagionale in vista dell'inverno 2024-2025 e i nostri imprenditori saranno costretti ad aumenti tra il 10 e il 15%. L'auspicio è che il governo ci ripensi, visto appunto il gran numero di cittadini che acquistano questo materiale. Siamo allo sport, basket, in A2 la Udine ha vinto in trasferta in Lombardia contro Orzi Nuovi, domenica sfida decisiva a Forlì per la corsa al secondo posto a fine stagione regolare che vale la Final Four di Coppa. Arriva solo a 4 secondi dalla fine il successo per Udine contro l'Agri Bertocchi Orzi Nuovi, una vera e propria magia di Ali Begovic che con una tripla decide un match che per l'APU è stato in salita fin dall'inizio. Troppi errori in attacco sia dall'arco che sotto le plance e una difesa in affanno in particolare contro l'italo-americano Grant Basile che segna 11 punti sui 13 totali dei suoi solo nel primo periodo. I bianco-blu invece difendono bene e riescono a ingabbiare Gaspardo, solo 9 alla fine ai suoi punti, ma per fortuna dell'APU ne approfittano meno di quanto potrebbero. A mancare all'Old Wild West è l'aggressività chiesta alla vigilia dal secondo allenatore Gerosa in panchina al posto dello squalificato Vertemati. Lo dimostrano i numeri del secondo quarto, 9 su 22 da 2 e 4 su 16 da 3. Nel terzo, complice un fisiologico calo di Orzi Nuovi, Clark dà un po' di sprint a Udine, gli errori però continuano e i bresciani rimettono la testa avanti sul 40-39. Carotti, l'altro trascinatore di Udine, chiude la frazione con un'altra tripla sulla sirena, che tiene i bianconeri in testa 49-51. L'ultimo quarto è incandescente, Udine continua a sbagliare anche i liberi, alla fine ne metterà a segno poco più del 50%, Basile schiaccia e porta Orzi Nuovi sul più 3, 62-59 a 5 minuti dalla fine. Capitan Monaldi da 3 riporta in vantaggio l'APU e da rossa allunga, ma Alessandrini ancora dall'arco impatta a quota 68. Negli ultimi due giri di lancette Basile fa 2 su 2 dalla lunetta e porta Orzi Nuovi sul più 1. Monaldi invece sbaglia incredibilmente tutti e due i suoi liberi e ci vuole la tripla di Ali Begovic per dare la vittoria ai bianconeri. 77-78 il punteggio finale, con Udine che si sblocca anche in trasferta e mantiene nel mirino il secondo posto. Per capire chi lo occuperà sarà decisiva la sfida di domenica in casa di Forlì. Daniele Letti, GTGR, Friuli Venezia Giulia. La musica, nuovo successo per il coro del Friuli Venezia Giulia, eccellenza musicale e culturale della regione. Dopo essersi esibito nella Grossersaal delle Musikverein di Vienna, storica sede del concerto di Capodanno, e dopo aver recentemente raggiunto il record della proposizione di 100 cantate di Johann Sebastian Bach, il coro, diretto dal maestro Cristiano Dell'Oste, sarà protagonista di un evento dal richiamo mondiale, cioè la riproposizione alla Biennale di Venezia dell'opera Prometeo, tragedia dell'ascolto del grande compositore veneziano Luigi Nono, per celebrare il 100° anniversario della sua nascita. L'opera andrà in scena dal 26 al 29 gennaio di quest'anno nella chiesa di San Lorenzo. Ed è tutto per questo giornale radio. In redazione ha collaborato Laura Sarasini, per la parte tecnica in regia Mauro Cumin e Carlo Morello. Da parte di Dario Ronzoni e di Elisabetta Zaccolo, l'augurio di una buona giornata e grazie per l'ascolto. Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.